Allora, come preannunciato, abbiamo in diretta l'Aquila per una seconda corrispondenza dalla manifestazione. Pronto? Allora, sì, sì. Ciao a tutte e a tutti, allora, nonostante la pioggia incidente, piove ancora. Piove ancora, sì. Non ha mai smesso di piovere. Siamo partiti insomma da Piazza d'Armi, abbiamo attraversato tutto il centro dell'Aquila e devo dire che è veramente una cosa non solo emozionante ma anche molto triste insomma da vedere, nel senso che sarebbe una città fantasma in cui la vita si è proprio fermata. E, tra l'altro ci sono anche degli altri comitati territoriali sparsi per l'Italia, cioè Caiano, ci sono i Nassav, ci sono i compagni di Milano contro la costruzione insomma dell'Expo 2015 a Milano, ci sono vari comitati territoriali da altri paesi che sono stati colpiti dal terremoto, Paganica, Sulmona, ci sono i compagni di Terzigno, insomma c'è tutta quelle realtà che si stanno mobilitando per la difesa del territorio, per la difesa delle salute delle persone e soprattutto per l'allontanare dalle città e i posti in cui vivere gli interessi della speculazione edilizia. Tra l'altro, mentre passiamo qui in questa città deserta che ormai è solo puntellata e cosparsa di questi manifesti delle case di costruzione che sono tutte legate alla Marcegaglia, come si spiegavano anche insomma, i compagni di Vicenza Sociale, c'è una tantissimi aquilani e tantissime aquilane che sono scese in piazza oggi, bambine, insomma persone che evidentemente hanno anche la necessità di tornare a parlare di quello che loro si vivono, ovvero del fatto di essersi viste assegnate delle case che non sono quelle ovviamente originarie in cui loro abitavano, ma sono case che spesso distano anche 20 km dal centro diciamo storico dell'Aquila. Adesso per alcuni di loro si parla anche di sfratto, si parla di essere allontanati anche da queste case tra virgolette provvisorie che il governo aveva promesso e messo in atto subito, perché ovviamente queste case costano e quindi qualcuno prima o poi dovrà cominciare a pagare anche le costruzioni fatte just in time, come si dice. Non saprei dire da parte. Senti, avevamo detto ma nei pressi del centro l'ingresso nella cosiddetta zona off limits, dico, ci sono stati problemi oppure si è attraversata regolarmente? No, dunque ovviamente credo ci sia stato anche un grosso lavoro dei compagni che hanno organizzato il corteo di fare in modo che ci fosse la possibilità di spiare anche in centro, però dovete considerare che qui sembra di essere in un territorio di guerra, nel senso che ci sono palazzi completamente crollati, vetri dappertutto, tutto è puntellato, transenne. Ci sono persone che come segno di protesta hanno lasciato le loro chiavi appese sulle reti che circondano i palazzi, come a dire, le chiavi le mettiamo qui, tanto è casa nostra, forse non ci rientreremo più sostanzialmente. Quindi oggi penso sia anche una cosa abbastanza particolare, no? Che persone possano sfilare in corteo insomma al centro dell'Aquila. Per il resto del centro è praticamente off limits, cioè non si può assolutamente entrare. Ci sono strade intere che sono completamente appunto puntellate con puntelli di ferro, con ponteggi, quindi non si può passare. Tra l'altro si dicevano che proprio su questo lavoro della ricostruzione, che ormai si sta allontanando sempre di più, perché più passa il tempo più i palazzi si appoggiano sostanzialmente sulle strutture che li sostengono, e dopodiché nel momento in cui vanno i punteggi il palazzo crolla ed è stato inutile tenere i punteggi, che tra l'altro sono in affitto, quindi ulteriori costi a carico della città dell'Aquila, una produzione di lungo periodo che però non sembra facile vedere in questo momento, quindi questo è quello che ci stanno anche raccontando insomma i compagni, oltre appunto all'espulsione dal centro che tutti ci stanno vivendo, chi più chi meno. Non è un caso, ci dicevano che oggi per dirsi è scesa in piazza persino la Confindustria locale, per come dire che le piccole e medie imprese del territorio che dobbiamo riaprire hanno deciso di in qualche modo cavalcare anche questa occasione di protesta per dare un segnale in qualche modo al governo, che in teoria è il loro amico, quindi dovrebbe prendere parola anche su questa cosa. Però c'è un territorio che si sta mobilitando, hanno portato le carriole con tutte le macerie dentro, come stanno fatto anche altre volte nel corso delle mobilitazioni, e continueranno a farlo, quello che spesso è uscito fuori anche nel corso della mobilitazione, della manifestazione, che qui ovviamente questo è un corso nazionale, ma che segna anche un passo di un percorso che non può finire ovviamente. Senti, come continua la manifestazione? Come procede? Noi siamo arrivati praticamente alla fine, devo dire, sì, che il corso è stato molto lungo, sì, quindi credo che la partecipazione sia stata molto ampia, sì, ci sono già persone che stanno tornando, insomma, chi verso i pullman, chi verso le auto, quindi siamo arrivati praticamente alla piazza principale dell'Aquila, dove c'è la cattedrale, quella che insomma ha fatto un po' il giro, le cui fama hanno fatto un po' il giro del mondo, perché insomma è un po' il simbolo anche della città, no? del centro vissuto. Quindi abbiamo attraversato la zona universitaria, abbiamo visto insomma le sedi dove c'erano appunto le università, che adesso sono state spostate fuori, le varie case dello studente, anche queste sono state spostate fuori, insomma i compagni dell'Aquila ci hanno anche accompagnato insomma in questo percorso, spiegandoci un po' quelli che sono gli interessi che si stanno costruendo intorno al centro storico, ovviamente le grandi banche, i grandi interessi economici che stanno investendo in parte nei palazzi che sono ancora agibili, probabilmente come dire, contribuiranno ancora di più a far uscire le persone dall'Aquila e far andare a vivere a Paganica, a 30 km di distanza. Ci sono quelli che stanno ancora negli alberghi, insomma, la situazione è questa, penso che un po' la conosciamo, ecco. Va bene, senti, allora dai, per ora direi che basta così e poi non so, buon viaggio. Io ti sento malissimo, forse c'è un problema con il sì, no, dicevo che se per ora va bene così, magari ci sentiamo più tardi per un'ulteriore verifica prima di un'altra diretta. Grazie, ciao. Allora, la seconda corrispondenza alla manifestazione dell'Aquila.